Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo al fine settimana, nuovo appuntamento insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Con noi al telefono c'è Gianluca Codognato. Ciao, benvenuto Gianluca. Ciao Francesco e un saluto ai radioascoltatori. Allora Gianluca, oggi raccontiamo una vicenda per la quale insomma l'Adico si è interessata e che sta prendendo una direzione. Raccontiamo di un fatto che capita esattamente in ZTL a Mestre. Sì, capita da noi, capita nel comune di Venezia, quindi insomma nella zona, nella terraferma veneziana che è Mestre, dove ci sono diverse zone di traffico limitato ormai da alcuni anni e dove rileviamo che ci sono delle situazioni che ci hanno lasciato perplesso e l'abbiamo denunciata. La situazione è sostanzialmente questa: quando gli automobilisti, al di là della ZTL, comunque in generale, prendono una multa e decidono di fare ricorso al prefetto, regolarmente siamo resi conto che il prefetto, o insomma gli uomini del prefetto, bocciano il ricorso e raddoppiano la multa, perché questo è previsto nel momento in cui il ricorso venga bocciato dal prefetto, quindi quello sì, è una cosa normale. Il problema è che a noi, almeno per la nostra attività, davvero non risulta che ci siano ricorsi accolti da parte del prefetto. Ovviamente ci riserviamo che possa essere testimoniata dalla stessa prefettura il contrario, però tutte le disavventure, le vicende che noi abbiamo affrontato dimostrano che almeno il prefetto o chi per esso, a quanto ci risulta, insomma, non leggono neanche i ricorsi e li bossano quasi automaticamente raddoppiando la multa. Gli esempi più eclatanti riguardano le persone disabili. Infatti di recente abbiamo denunciato una situazione che poi era apparsa sui giornali, ovvero una disabile che proveniva da fuori comune, aveva il pass disabile europeo, quello che dovrebbe valere ovunque, è passata nella zona traffico limitato di Mestre e come al solito ha preso la multa, perché teoricamente doveva avvertire i vigili del suo passaggio, e ha fatto ricorso al prefetto. Regolarmente il prefetto gliel'ha bocciato, gli ha raddoppiato la multa. Questa signora poi si è rivolta al giudice di pace, che chiaramente ha accolto il suo ricorso, perché qua stiamo parlando di una persona che fa un pass disabile europeo, che quindi non dovrebbe prevedere il fatto che bisogna avvertire i vigili quando si viene nel comune. Ecco, dopo la nostra denuncia, diciamo con una certa soddisfazione, abbiamo appreso che un deputato dei 5 Stelle, tra parentesi un deputato mestrino, Marco Davilla, ha presentato un'interrogazione parlamentare nella quale appunto si chiedeva se fosse giusto che, come denunciato proprio da noi, la prefettura, a quanto insomma appare, non accolga praticamente mai i ricorsi, neanche dei ricorsi che insomma dovrebbero avere una strada già segnata, certo, come quella che vengono presentati spesso dai disabili, che purtroppo quando capitano a Mestre nelle ZTL, pur avendo il pass europeo, regolarmente vengono sanzionati per una regola che insomma non ha senso, e speriamo che appunto anche grazie a questa interrogazione venga comunque cancellata, cioè il fatto che nel comune di Venezia e evidentemente in altri pochissimi comuni italiani, quando un disabile anche con il pass viene nel nostro comune, teoricamente dovrebbe avvertire i vigili del suo passaggio dando la targa, quindi insomma con un meccanismo che è totalmente assurdo. Tornando a noi, siamo contenti, accogliamo con soddisfazione l'interrogazione presentata dal deputato Davilla, per il semplice fatto che noi da tempo, al di là di questo episodio, come ti dicevo, abbiamo sentore che nella prefettura di Venezia, addirittura, noi non vogliamo, è un nostro sentore, quindi chiaramente non vogliamo accusare nessuno, però è il nostro sentore che in alcuni casi i ricorsi non vengono neanche letti. Perché lo diciamo? Perché le sentenze che noi andiamo ad esaminare sono molto cavillose, fanno tutti riferimento ad articoli, non c'è una sentenza lineare che spieghi bene il perché il ricorso è stato respinto, al contrario di quello che succede invece in altre realtà, anche del Veneto, perché noi per esempio, Francesco, abbiamo potuto leggere in analoghe situazioni le sentenze del prefetto di Treviso, per esempio, che tra l'altro accoglie parecchi ricorsi, e diciamo che le sentenze sono molto chiare e spiegano esattamente perché un ricorso viene accolto o viene bocciato. Certo. Dobbiamo dire che a Venezia tutto questo non succede. Ho visto che proprio nell'interrogazione al ministro dell'Interno viene chiesto espressamente di avere informazioni statistiche circa l'attività della prefettura, e questo mi sembra una cosa interessante. Sì, è molto interessante perché oggettivamente, siccome è prevista la possibilità di presentare un ricorso al prefetto, tanto più che questa possibilità è gratuita rispetto a quella invece che si prevede davanti al giudice di pace, per il quale chiaramente bisogna pagare un contributo unificato, e non si capisce perché, se esiste questa possibilità alla fin fine a Venezia è sconsigliabilissima, come diciamo sempre a tutti, perché noi sappiamo che in linea di massima il prefetto, quantomeno, mettiamola così, non ha simpatia per i ricorsi da parte degli automobilisti. Per cui noi continuiamo a farlo fino a che non verrà svelato questo mistero, grazie anche, speriamo, a questa interrogazione. Noi continuiamo a consigliare le persone che abbiano ricevuto delle multe nel comune di Venezia ad evitare assolutamente il ricorso al prefetto di Venezia. È brutto dirlo, perché oggettivamente noi pensiamo che la giustizia dovrebbe appunto essere giusta, per cui non vorremmo mai andare a dare questo consiglio. Lo diamo perché dalla nostra esperienza abbiamo notato che appunto il prefetto regolarmente boccia la doppia multa. Certo. E ci consolerebbe sapere, e quindi ne approfittiamo anche della tua trasmissione, ci consolerebbe sapere che ci stiamo sbagliando, che in realtà tante volte il prefetto i ricorsi li accoglie, e così insomma ci consoleremo anche noi. Però a quanto ci risulta dalla nostra esperienza anche passata, anche per un'altra esperienza vissuta qua, che è stata clamorosa, abbiamo raccontato sempre durante la vostra trasmissione, e che riguardava le ZTL sempre della nostra zona, in cui erano intappati migliaia di persone, anche là i ricorsi non erano stati accolti, pur appoggiati dallo stesso assessore alla mobilità del comune di Venezia. Ecco, in quell'occasione c'era stato un comportamento scorretto da parte della prefettura, a noi pare che questo comportamento continui. Ripeto, ben contenti, ben soddisfatti se verremo smentiti. Bene. E se ci sarà anche una risposta, diciamo, chiara e limpida da parte della prefettura di fronte a questa, al ministero, insomma, di fronte a questa interrogazione, siamo anche disponibilissimi a scusarci con la prefettura per questa indicazione. Però insomma, allo stato attuale ci sembra che effettivamente la nostra denuncia, tra virgolette, sia in realtà molto corretta. Va bene, aspettiamo risposte dal prefetto di Venezia, allora, mi raccomando. Grazie all'Adico, ricordo il sito per ulteriori informazioni www.associazionedifesaconsumatori.it, e grazie a te Gianluca Codognato, ci sentiamo tra qualche giorno. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.